colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Benvenuti radioascoltatori, amici di tutti, dell'Italia, del Belgio, amici che vengono da tutta la parte d'Europa, da tutte le parti d'Europa. Eccoci ancora qui dalla Maison de Culture de Saint-Gilles, Tiziana, Rossella e Leandro. Oggi è il 3 febbraio 2014 e ancora una volta siamo con voi per la trasmissione I Colori dell'Anima. Sì, e Tiziana si è preparata ripetutamente per dire bene Maison de Culture de Saint-Gilles, e dobbiamo dire che sei stata molto brava. Oh, Tiziana, mamma mia, non mi fare arrossire. Ci è piaciuto. Ricordiamo subito i numeri di telefono per subito, contattarci. Subito. Allora, innanzitutto, anzi, Tiziana, dici tu la pagina Facebook, perché tu la dici sempre giusto. Tiziana, Rossella, Tiziana e Leandro Onel. Mi fai confondere oggi, mi ha fatto arrossire. Rossella, virgola, Tiziana e Leandro Onel. Oh yeah, grazie Leandro. E vorremmo anche ricordarvi il numero di telefono per chiamare dall'Italia, perché sappiamo e speriamo che c'è un gruppo che ci ascolta da Perugia, e quindi vi diamo subito il numero di telefono, fatevi vivi, allo 0032 2345 2656, o ancora mandate un sms al numero di Leandro, ovvero 0486 94 1129. Oh, che yeah, professionale oggi. L'altra volta è stato un po' equivoco nel modo di dirlo, stavolta un po' più professionale. E avrete notato che siamo ancora con voi una settimana dopo l'altra. Questa volta abbiamo fatto un plane. Bingo! E allora non ci stanchiamo mai, siamo sempre più spesso qui con voi perché ci divertiamo un sacco. E questa sera abbiamo un ospite speciale, parliamo come al solito dell'Italia, lo facciamo da un punto di vista differente, abbiamo un ospite, cosa vogliamo dire dell'ospite? Un ospite che è un programma, io direi. Tutto un programma, però esatto, non vorrei svelare molto. No, però io direi che è un ospite veramente speciale, dalla quale avremo... Avremo molto da imparare, ne sono sicura. Continentale. Continentale, esattamente. Ma io partirei prima con una canzone. Leandro, cosa dici? Assolutamente sì. Partiamo subito con una canzone, però sicula. La donna riccia dei Tinturia. Ecco a voi. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Scopriremo insieme su i colori dell'anima. E rieccoci sui colori dell'anima. Buonasera a tutti. Buonasera, abbiamo ascoltato la donna riccia dei Tinturia e ci siamo persi Rossella nel frattempo, che è iniziata a saltare, a ballare per tutto lo studio. Sì. Non potete immaginare, non sapevamo più come tenerla. Sì, perché è un gruppo dell'Agrigentino molto famoso che ci fa ballare, ed è quindi era un piacere ascoltarlo. E volevo prendere l'occasione per salutare gli amici di Menfi che ci stanno salutando. Quindi ciao Giuseppe, ciao Maria Campo, ciao Alessandra Mandarracina, grazie che ci seguite. Ciao ciao a tutti, tutti i siciliani, tutti gli italiani che ci seguono. Sì, e ricordiamo la pagina Facebook, Rossella, Tiziana e Leandro On Air. Fatevi vivi, ragazzi. Scriveteci e diteci il vostro parere sull'argomento di oggi. Eh sì, perché questo ci tocca a tutti. Nessuno si può sentire non toccato. Rossella, però dobbiamo iniziare a parlare dell'argomento di oggi. Abbiamo detto che abbiamo un ospite. Oh, sentiamo una musica. È una tarantella del sud. Del sud? Ma di quale regione? Che tarantella è? Lanciamo il contest. Sì, un contest. Chi riconosce la tarantella? E rieccoci, quindi dicevamo che questa ospite è delle regioni Bella Calabria. Yuhu, anzi, a me mi piace sempre dirla al plurale. Delle Calabrie. Buonasera, Karin, è con noi. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti. Karin non è riccia, ma in realtà ci diventa pure riccia all'occasione. È riccia dentro, mettiamola così. Sì, sì, sì, sì, non allora, le manca nulla. Tutta la carica necessaria per... Per essere una donna riccia. Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, sì. Karin, cosa ci racconti? Chi sei? Da dove vieni? Perché sei qui? Allora, il mio nome è Karin, come ben sapete tutti quanti, e vengo dalla Calabria, nello specifico da Vibo Valentia, la provincia più arretrata di tutta l'Italia. Cosa succede? Che a 18-19 anni vado via dalla mia terra odiando le persone, la gente, la cultura, un po' cercando di evadere, cercando un luogo dove io mi potessi sentire a casa mia, dove poter crescere a livello personale e professionale. Quindi comincio l'università, vado a Perugia e lì conosco il fantastico mondo della mobilità europea e comincio a viaggiare come una pazza, l'Erasmus, il Leonardo, continuo con altre opportunità di studio e di lavoro. Fin quando praticamente comincio a pensare che in realtà ovunque io andassi non mi sentivo mai a casa mia. Quindi inizi a cercare... Perché non trovavi l'anduia. O il tartufo di Pizzo, perché a Pizzo è buono. Oltre a essere la provincia più... però c'è pure il buon tartufo. Vogliamo parlare del sole del sud? Dove lo trovi quello? Quello non lo puoi sostituire con nulla. L'estate che comincia a maggio e finisce ad ottobre. Quando finisce? Perché a volte neanche finisce. Con Karin noi ci conosciamo perché abbiamo abitato insieme a Perugia, quindi io l'ho conosciuta Karin 9 anni fa. Quindi ho visto la sua evoluzione, perché questa sera appunto vi parliamo della sua esperienza un po' fuori dal comune un po'. E non quindi, solo, arriveremo anche ad altro. Esattamente. Sorprese, quindi, sorprese stasera. Oh yeah. Quindi chi è stato all'estero ha visto molto, però sì, è andato fuori, però la nostra trasmissione l'abbiamo intitolata oggi Casa mia è l'Italia. Sì. Perché? Perché? Perché la voglia di viaggiare, insomma, mi ha portato lontano in tanti luoghi, e fin quando però ho maturato che casa mia è casa mia e volevo assolutamente tornare a casa. Quindi all'età di 29 anni mi sono armata di coraggio e ho deciso di tornare a casa con il mio bagaglio personale e professionale per mettere al servizio le mie competenze al servizio della mia terra. Grande, questo ci piace, ci piace, sì, sentire questo. Ci piace molto. Senti Karin, io farei un passo indietro, vorrei sentire un po' le tue esperienze all'estero. Dove sei stata, cosa hai fatto, perché ti piaceva stare all'estero? Mi piaceva stare all'estero perché era un contesto in cui io potevo essere me stessa, essere valutata per la persona che ero, per le competenze che avevo, e quindi sentivo questa grande possibilità di ottenere le cose che volevo facendo forza solo sulle mie possibilità, competenze, sulla mia voglia di fare. Quindi mi dava sicuramente la possibilità di poter vedere il mio futuro così come lo potevo immaginare, no? Investendo su me stessa, mentre casa mia, nello specifico proprio la Calabria, non mi ha mai dato questa visione, no? Questa sensazione di poterti mettere in gioco, sì, e vedere cosa riuscivi a fare. Sì, però io direi che poi te la sei presa tu questa, non te l'ha dato lei la possibilità, però te la sei andata a cercare, te la sei presa un po' tu la possibilità di tornare a casa. Sì, perché ho capito che l'importante nella vita è sapersi creare le opportunità, non è quello di trovarle, bisogna anche essere capaci di crearsele, no? E nello specifico, vabbè, del mio lavoro, lavoro con i fondi europei, mi sono resa conto, ho avuto l'intuizione che la Calabria, essendo comunque una delle regioni più arretrate anche per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi, per me poteva essere un'opportunità tornare a casa. Quindi nonostante ci fosse un contesto socioculturale che poteva remarmi contro, comunque io sapevo che avevo la possibilità di trovare una strada, che mi sono piano piano costruita facendo network con le persone che credono come me nello sviluppo della nostra terra, nello sviluppo della cultura, della mentalità e quant'altro. Credendoci, non mollando mai, facendo tanti sacrifici e andando sempre avanti. Sì, sì, senza lasciarsi abbattere gli ostacoli che sicuramente ce ne sono, e ce ne parlerai più nel dettaglio sicuramente. Però ecco, mi piaceva questa cosa che diceva Karin, quindi questa voglia di mettersi in gioco, di provarci, data anche appunto dall'aver visto che un altro modo di vivere possibile, aver lasciato appunto la Calabria a 18 anni, essere andata a studiare a Perugia e poi aver fatto tante altre esperienze, vedere che si può fare ciò che si sa fare, e quindi ecco, lo si può fare nella propria terra, lo si può fare per qualcuno che magari non pensa neanche di volerlo. Sì, quello sì, sì. Karin, ci avevi chiesto una canzone tu che ti ricorda un po' questo percorso, questo... Sì, sì, io la canzone Moving di Macaco mi fa sempre un po' sognare, mi dà quella grinta necessaria per continuare ad andare avanti, perché dice una frase che poi vi svelerò. Ora partiamo con la canzone, ascoltatela bene. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E rieccoci in diretta sui colori dell'anima su Radio Alma, e siamo qui Rossella, Tiziana e Leandro, e siamo ben contenti che ci sia anche Leandro, perché è stato fino all'ultimo momento non sapevamo se saremmo state in due stavolta. Esatto, c'era una possibile seduta ad oltranza che per fortuna è stata disdetta all'ultimo sospesa momentaneamente. E siamo qui con la nostra ospite Karin dalle belle Calabrie, che ci parla del suo amore per l'Italia, di quello che ha fatto per poterci tornare, delle sue esperienze all'estero, ma come queste le servono da contesto, da contorno, per poi dare un qualcosa di più al suo paese. Senti Karin, ci dicevi che ci sono stati, cioè chiaramente ci sono delle difficoltà che hai avuto delle difficoltà, ad esempio con le persone, o dici un po'? Sì, sì, nell'affrontare il mio rientro a casa, cercare di portare il sogno di sviluppo che io avevo, no, per la mia terra. E quindi è per questo che ho voluto lanciare insieme a voi questa canzone, perché ci sono due frasi di questa canzone che mi motivano tantissimo. Quali sono, Karin? Moving, all the people moving, one move for just one dream. Perché ognuno di noi ha un sogno dentro di sé, e solo grazie al movimento, quindi nel cercare di fare qualcosa, questo sogno si può raggiungere. E la seconda frase che mi tocca particolarmente, io non leggo in spagnolo, però ci proverò. Dai, che sei poliglotta, dai, che sai tutte le lingue del mondo, Karin. Nunca lei fue tan simple e clara, acción, reacción, repercusión. Murmullo se unan forman gritos, juntos somos evolución. Quindi, io già ho gli occhi languidi, che vuol dire, Karin? Nessuna legge è stata tanto semplice e chiara, azione, reazione, ripercussione, quindi tutto quello che noi facciamo ha sicuramente un ritorno, e se si fa bene c'è un ritorno positivo, e questa è la mia esperienza. E dobbiamo andare nella direzione dei nostri sogni, dei nostri desideri, non ci dobbiamo accontentare. Questa è una cosa bellissima, una cosa in cui io credo veramente tanto, e mi fa venire in mente, sai cosa, una dei passi più belli del discorso che Steve Jobs ha fatto ai laureati di Stanford nel 2005, uno dei discorsi più famosi di Steve Jobs. E quello che mi è piaciuto di più è quando lui dice che ogni giorno della sua vita lui si guardava allo specchio e si chiedeva se quello fosse l'ultimo giorno della sua vita, se avesse voluto avesse voluto fare quello che avrebbe fatto quel giorno. E ogni volta che la risposta era no per più di un giorno, per troppo tempo, allora capiva che doveva cambiare qualcosa nella sua vita. Io penso che lo dovrebbero fare tutti i giovani, a maggior ragione. Sì, sì, è stato proprio questo il sentimento che mi ha spinto a voler tornare, perché anch'io vivo in questa condizione, ho riconosciuto l'importanza di poterci almeno provare. Sì, esatto, come dicevamo Karin, tu ti sei messa in gioco, cioè hai voluto provare, e ovviamente questo provarci ha avuto un bel prezzo da pagare, immagino. Non è stato facile. No. Solitamente appunto per definizione i sogni, cioè bisogna provare ad andare dietro i sogni, però c'è un bel prezzo questo, ha avuto le sue difficoltà, ci sono stati momenti duri. Ma ci sono tuttora. Ma ci sono tuttora, anche la Calabria non è che dice è cambiata da quando sono tornata io, però tu inizi a fare cambiare un po' le cose. Sì. Diciamo che è il fenomeno che principalmente mi incoraggia sempre di più, il fatto che per me, cioè secondo me la crisi economica è una vera benedizione per noi, perché tantissimi giovani che hanno fatto delle esperienze fuori, anche all'estero, in un primo momento decidono di tornare a casa perché dicono se devo inventarmi qualcosa tanto vale provare da casa, partendo da casa. Tu cosa ti sei inventata, Karin? Perché noi stiamo... che cosa? Vogliamo saperlo, i nostri radioascoltatori lo vogliono sapere. Io ho cominciato nel cercare di capire qual è il mio settore. Uh-huh. Io sogno, cioè vabbè, sono portata per quello che è il settore della formazione e dell'educazione. Uh-huh. E quindi ho riconosciuto nella possibilità dei fondi europei quello di cercare di creare dei progetti finanziati nel mio territorio, proprio per cambiare la cultura, che è fondamentalmente il primo freno in assoluto a qualsiasi tipo di sviluppo. Certo. Perché, scusa se ti interrompo, penso proprio che tante volte le persone dicono sì, voglio cambiare, voglio tornare, voglio fare quello per cui sono capace, voglio dare qualcosa, ma a volte il contesto non lo permette, a volte è difficile perché c'è proprio una mentalità sbagliata alla base, quindi bisogna cambiarla dalle radici. Sì. E c'è un trucco che magari può essere un suggerimento per gli altri. Diccelo, magari. Il trucco è quello che è, nonostante magari il contesto ti butta giù, ti fa credere di non potercela fare, e il trucco sta nel cercare di crearsi il nocciolo duro del proprio futuro, del proprio sogno, e collegandosi alle persone che la pensano come te, che hanno delle competenze magari che ti possono anche aiutare a realizzare il tuo sogno, quindi a cercare di fare rete. Noi in Calabria stiamo facendo rete, esistono tante reti, tanti reti in tanti settori diversi. Io lavoro nel settore della formazione, ma ci sono dei giovani che da anni investono per creare una rete, una filiera di aziende positive che E dici, facci qualche esempio, perché noi non vogliamo soltanto sentire parlare di idee, di sogni, ma di cose concrete, perché le persone ormai sono disilluse, non vogliono più sentire solo le parole. Sì, io volevo ringraziare per esempio Anna Laura Orrico, che è l'ex presidente di un'associazione che si chiama Io Resto in Calabria, che ora si è messa ha creato il Talent Garden, dove praticamente ha raccolto in sé tutte le aziende innovative dell'ICT in Calabria, tutte giovani, start-up giovanili, cercando di aiutarli anche a realizzare progetti nuovi e a creare nuove start-up d'azienda. Quindi lei si è dedicata a questo settore economico, io mi occupo dell'educazione e della formazione, e grazie alla dirigente scolastica della mia zona, faccio il suo nome anche per salutarla, Maria Salvia. Certo. Che è una grande donna, veramente, un carro armato. E allora ti salutiamo tutti insieme, Maria Salvo. Grazie per quello che fai. Lei, insieme a lei, stiamo realizzando tante altre cose, quindi, però ci è voluto tempo, perché all'inizio, quando sono tornata, tutti mi dicevano il curriculum te lo puoi tenere chiuso nel cassetto, in Calabria è carta straccia. E non vi nascondo che è stato veramente duro, dopo una vita di studi, insomma, di investimenti, sentirsi dire questa frase, però non so come e perché ho continuato, e nel percorso, durante il percorso, io ho conosciuto tantissime persone positive. C'è un'azienda famosissima, io per me è famosissima perché certo. Li adoro. Sono Alessandro Senato e Carmelo, della Danematica. Che è un progetto di cui ci ha parlato dell'informatica. Sì, sono fantastici, sì. Cioè loro sono calabresi, si sono inventati un software per insegnare la fisica nelle scuole attraverso l'ICT, no? I software. Sono ancora in tempo allora a imparare la fisica, io. E sì, ce la possiamo fare tutti. E loro addirittura, cioè, da uno studio piccolissimo a Cosenza, ora stanno brevettando questo software in America, hanno anche trovato investitori che vogliono realizzarlo per altri settori della scienza, quindi per insegnare la chimica, la matematica e quant'altro, no? Per renderlo più dagli sex appeal. Quindi insomma, volendo si può fare qualcosa. Sì, ma non... Senti, però ecco, bisogna tirare fuori i denti, mi sa. Sì. È proprio questo. Che ti lamenti, ma che ti lamenti? Puglia l'uva stun e tira fuori gli denti. Esattamente, vi facciamo ascoltare questa bellissima canzone di Roy Pace e Aretusca, La Mala Razza. ci di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Siamo su Radio Alma, i colori dell'anima, Tiziana, Rossella e Leandro. E c'è qualcuno? Abbiamo un ospite. Ciao ragazzi. Ciao, pronto, love. Ciao a tutti. Ciao, con chi abbiamo il piacere di parlare? Io sono Cristina. E vai. Un'altra. Abbiamo un'altra calabrese tra di noi. Ciao Cristina. Senti, io ti conosco Cristina e ho voluto che ci raccontassi anche tu un po' la tua piccola esperienza. Anche tu calabrese, vabbè, questa sera è la sera dell'nduja e niente. Perché anche tu, insomma, hai deciso di tornare in Calabria dopo essere stata in Spagna, a Perugia, dopo essere stata a destra e a sinistra, poi hai detto basta, sai che c'è? Io me ne vado in Calabria. Ma immagino che non è stato facilissimo, eh? Dici un po', Cristi. Allora, innanzitutto voglio dire che ascoltando prima anche l'esperienza di Karin, che saluto e che spero di incontrare visto che siamo così vicine un giorno, abbiamo avuto due vite e due esperienze praticamente gemelle, molto simili e assolutamente, diciamo dal punto di vista emotivo, assolutamente uguali, perché io ho studiato anche a Perugia, poi sono partita prima per l'Erasmus, poi per il Leonardo in Spagna e ho avuto la possibilità quindi di osservare anche diciamo il mondo lavorativo, visto che stiamo parlando di questa serata. Ho lavorato come giornalista a Siviglia, è stata una delle mie prime esperienze grazie al progetto Leonardo e una delle più significative. Successivamente al mio ritorno diciamo che ho avuto la possibilità di lavorare anche in Italia in zone diverse dalla Calabria, poi un bel giorno mi sono svegliata nel 2011, quasi 2 anni e mezzo, 3 anni che sono qui a Cosenza, e di ritornare perché avevo anche io voglia di fare qualcosa per la mia terra, cioè quello che ci accomuna è proprio questo, dopo aver visto cosa c'è al di là della montagna della Sila, dico io, mi va insomma di vedere cosa posso fare io per questa terra. Sicuramente le difficoltà sono state enormi all'inizio e ci sono ancora, è inutile negarlo. Io ogni giorno mi sveglio e dico cavolo, devo lottare anche oggi per ritagliarmi il mio posto nel mondo, però sicuramente ci sono degli aspetti positivi. Il primo di tutti è la vicinanza della famiglia e dei tuoi affetti, cioè delle persone che ti amano incondizionatamente qualunque cosa accada e cosa che magari all'estero manca certo, molto a volte. E seconda cosa è il cibo, ragazzi. Cioè, ti capiamo, Cristina, ti capiamo. Ah, bella satizia calabrese che io ti conosco, zio. Io so che a Rossella piace molto il parmigiano e non appena avrò modo di venire a Bruxelles a trovarlo. Anche a Leandro e Tiziana piace molto il parmigiano. Mi porta pure tu Gadozzi Sasiccia, Cristina. Va benissimo. Perché Karin non vi ha portato niente a questo giro. Ma no, Karin ci ha portato una sciarpa da Rio de Janeiro. La riaspettiamo con chili e chilate d'anduia. Senti, ecco, io a Sasiccia ti porto. Ecco, come piace assai. Senti Cristina, grazie per questo tuo intervento, è stato conciso però ci hai veramente spiegato bene come sì, la tua prospettiva. Senti, dici un po', tu volevi, ci avevi chiesto una canzone, volevi ascoltare una canzone? Sì, volevo farvi ascoltare qualcosa che è nata e si è sviluppata nella mia città. Qui c'è un gran fermento musicale e questo è un gruppo che io amo molto anche perché li conosco, sono amici, e vorrei farvi ascoltare uno dei loro pezzi, potete trovare anche il loro video su YouTube, loro si chiamano Soul Paints e la canzone insomma è Bitter Day. Va bene, grazie Cristina. Senti, noi posteremo subito il link sulla nostra pagina Facebook, così perfetto. Chi ci sta ascoltando può andare a spulciarsi un po' il sito internet o il link, rivedere il video. E io l'ho sentito, devo dire che è veramente un pezzo molto interessante. Rimaniamo... Va bene, sono contenta di aver partecipato a questa trasmissione, spero di rivedervi e conoscervi tutti molto presto. No, noi ci aspettiamo con le chilate di Sasizza a Bruxelles. Lo speriamo anche noi e siamo contenti anche del link della canzone che ci hai mandato, perché è un altro spunto per dimostrare, per far vedere, per dare esempi di creatività, di voglia di fare delle persone che stanno in Italia, delle persone che stanno al sud, nei posti dove uno se lo aspetterebbe di meno, che ci sia tutto questo fermento. Mi è piaciuto quello che hai detto, c'è fermento musicale ed è bello. Grazie. Grazie Cristina, grazie. Ciao, un abbraccio. Grazie a tutti, ciao, ciao, ciao. In Better Day. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su Colori dell'anima. Ed eccoci tornati amici radioascoltatori, siamo qui a Radio Alma, i colori dell'anima, Tiziana, Rossella e Leandro, e stiamo parlando di italiani che hanno voglia di fare, di fermento che c'è nell'anima degli italiani. Abbiamo appena ascoltato Bitter Day, una canzone di un gruppo di Cosenza, i Soul Pain, grazie Cristina per avercela consigliata, perché è veramente bellissima, effettivamente noi aspettiamo Soul Pain a Bruxelles. Assolutamente, assolutamente, vi faremo suonare un po' di canzoni dal vivo. Esattamente, ma come dicevi tu Tiziana, c'è il fermento in Italia, ma il fermento è dentro gli italiani, no? Ovunque essi si trovano. Esatto, e quindi volevamo consigliarvi un evento imperdibile, venerdì sera, il 7 febbraio, alle ore 20, ci sarà un super concerto durante il quale parteciperanno 63 musicisti che si esibiranno con musica jazz e musica classica. Durante questo concerto suonerà il grandissimo maestro Angelo Gregorio, che salutiamo tutti insieme. Ciao Angelo. E quindi il 7 febbraio alle ore 20, nonostante si consiglia di arrivare un po' in anticipo per assicurarsi un buon posto, a Rue de la Régence numero 30, in centro a Bruxelles, Rue de la Régence 30, vi aspettiamo ragazzi. Questo venerdì. Ragazze, esatto. Ragazzi, abbiamo una sorpresa. Surprise. Una delle nostre compagne di viaggio. No, ma io non pensavo che ci fosse anche stasera. Pronto? Ciao ragazzi. Ciao! Ciao Serena! Ciao. Ma Serena, in quanti siete? Sei da sola o c'è qualcuno con te? No, vabbè, cioè diciamo, questo qualcuno con te è sempre dentro di te o è fuori di te? È ancora dentro di te. In versione balenottera, insomma, mi muovo ancora in questa versione qui, però è questione proprio di pochissimi giorni, spero ore, perché a questo punto... Esatto. E tu a poche ore dal parto vieni a parlarci di viaggi, Serena! sì, sono una malata di mente. No, sei grandiosa, parlavamo del fermento degli italiani, delle energie che hanno, ecco, tu sei la prova vivente di quello che dicevamo. Grazie. Grandiosa. Allora, di cosa ci parli, Serena? Dicci. Allora, io per questa sera ho pensato, insomma, a una meta tedesca. Interessantissimo. Ho pensato a Colonia, perché proprio in questo periodo si tiene una festa, insomma, molto particolare, comunque per cui la città è molto famosa, che è il Carnevale, appunto. Sì, il famosissimo Carnevale di Colonia. Eh sì, è considerato uno dei carnevali poi più esuberanti del nord Europa, quindi insomma mi sembrava di doverne parlare, visto che si è ancora in tempo per organizzarsi e partire. Non solo, perché noi la trasmissione la facciamo a Bruxelles, quindi quale miglior luogo per andare a Colonia? Insomma, in 2 ore di macchina più o meno si arriva a Colonia, quindi anche piuttosto comodo, insomma. Quest'anno avrà inizio il 27 febbraio e terminerà il 5 marzo, quindi insomma diciamo che ci sono diversi giorni di scelta, insomma, in cui poter partire, ma il weekend è quello che si presta poi sempre meglio. In ogni modo, io volevo darvi alcuni consigli prima di partire per questo carnevale particolare, che è controllare di avere lo stomaco in buone condizioni e eventualmente portare qualche digestivo, nel senso che allora inizierete a bere alle 10:30 del mattino fino a notte inoltrata e mangerete quintalate di wurster, curry wurster, salse di ogni tipo, spiedini con la carne, insomma è una gioia per tutti gli italiani che ci ascoltano, basta che gli parli di bere e di mangiare, penso che li inviti a notte. Quindi innanzitutto lo stomaco, poi vabbè, la cosa insomma particolare di questo carnevale è che ovviamente lì si potrà ballare tutto il giorno intonando i canti tipici di questa zona della Germania e troverete in pochissimo tempo abbracciati a dei tedeschi mascherati nei modi più inconsueti cantando appunto queste cose in tedesco, che anche se non parlate tedesco è lo stesso, perché poi le imparate bevendo tra una birrozza e l'altra qualche parolina in tedesco la si impara, il minimo indispensabile per sopravvivere. Sì, quello, state pure tranquilli. Poi vabbè, ovviamente ci sono le varie sfilate dei carri, in questo caso insomma lì la caratteristica tipica è che si lanciano caramelle da questi carri, quindi anche lì tutti in coro a urlare camelle, camelle, insomma, camelle. Tutto, è tutta una gioia, una festa, un'allegria di questo tipo ed è veramente insomma divertente, insomma, da poter andarci un pochino. Il programma, se vi interessa, quindi inizia appunto, vi dicevo, il 27 febbraio e la giornata è dedicata al carnevale delle donne, così chiamato perché appunto in quella giornata le donne comandano e vanno in giro tagliando le cravatte agli uomini dando baci. Quindi insomma può essere una buona sinistra occasione, non si sa mai, ma sa che partiamo direttamente lunedì mattina noi, allora sì dai, facciamo un gruppo di spedizione poi insomma ci sono le varie sfilate. Il sabato c'è la sfilata delle giubbe rosse, insomma dei soldati, insomma dell'epoca di Colonia. La domenica quella dei bambini, il lunedì delle rose, il 3 marzo, quindi è la giornata diciamo l'apice del carnevale di Colonia. Sono previste sfilate con oltre 11.000 persone, 123 bandi, 128 carri, insomma una cosa gigantesca. E poi il tutto finisce il mercoledì 5, che è quello delle cenere, mangiando a questo punto pesce, insomma ovunque si mangia solo pesce, quindi insomma benissimo, benissimo. Serena, senti, io mi stavo scompisciando perché i tuoi consigli sono meravigliosi, mi ricordano un carnevale a Colonia passato insieme, quindi no, ma poi è bellissimo perché sentirlo, pensare che quello che ti sta raccomandando un carnevale così, un viaggio così, è una donna incinta, in procinto di partorire, che di solito dovrebbe pensare a tutto, alla calma, alla tranquillità, comunque tutt'altro genere di pensieri, è bellissimo veramente. Tanto di birra. Grande Serena. Senti, fantastico. Vogliamo proprio dedicarti una canzone perché sei perché veramente te la meriti. Speciale per noi, la nostra migliore travel blogger e siamo sicure che sarai una mamma fantastica. Ti facciamo tanti. E poi parleremo di viaggi con bambini, eh. Certo. Ora avremo un'altra compagna di viaggio qua ai Colori dell'Anima. E allora un in bocca al lupo grossissimo dal gruppo, dall'equipe dei Colori dell'Anima. Ci sentiamo presto. E questo è per te e per tutte le mamme del mondo. Un bacione, un abbraccio forte, grazie. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I Colori dell'Anima. Rieccoci in onda dopo questa serata scintillante e meravigliosa. Vogliamo salutare tutti gli amici che ci stanno salutando, Loreto, che ci stanno seguendo, Loreto, Silvia Zinnetti, Chiara Pinna, ciao a tutti, grazie ragazzi. Ciao. Sempre mangiando gli gnocchi, Beata te. Beata sì. Senti, Beatrice, Chiara è con Beatrice. Esatto. Senti, ritorniamo qui con Karin, perché Karin ci hai dato tanti spunti di riflessione questa sera, ma uno in particolare mi ha suscitato, ecco, la curiosità. Questa cosa che tu ci hai detto, che la crisi in realtà paradossalmente sta riportando delle risorse giù e delle risorse appunto ai ragazzi, quindi delle persone creative che hanno voglia di innovare, di provarci a fare qualcosa, di mettersi in gioco in prima persona. Esattamente. Quindi paradossalmente nella crisi tu ci raccontavi, ecco, di questo gruppo che si è messo e ha creato questi software, quindi si è creato un lavoro che gli piace, sì. E che invece se non ci fosse la crisi forse si pigliava un lavoro il primo che gli passava sotto mano, e poi dopo 10 anni diceva ma io avrei voluto fare qualche altra cosa. Sì. E quindi questo è un po' quello che è successo a te. Sì, io penso che la crisi sia una vera e propria benedizione per la nostra terra, perché tanti giovani che hanno studiato, invece di accontentarsi magari di un lavoro che facilmente trovano, non riuscendo a trovare altra occupazione, prova a realizzare i propri sogni e quindi comunque si mette in gioco e tante volte ci riesce. Esatto, come hai fatto tu. Grazie mille Karin. Prego. Vogliamo salutarti ascoltando queste parole molto belle di Leandro. In realtà del grande Albert Einstein. Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi può essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e disagi inibisce il proprio talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è l'incompetenza. Il più grande inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d'uscita ai propri problemi. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. L'unico pericolo della crisi è la tragedia che può conseguire al non voler lottare per superarla. Bellissimo Leandro, bellissimo. Queste parole rispecchiano perfettamente ciò che volevamo trasmettere in questa trasmissione. Però purtroppo, come al solito, il tempo è volato, dobbiamo...